Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da marzo a dicembre del 1853. Ritorna la guerra in Europa tra l'impero russo e quello ottomano. Produzione tessile a terra nel Lombardo Veneto per una malattia dei bachi da seta. La strana invenzione presentata all'Expo di New York sostituirà le scale, dice il suo creatore. Alla Fenice di Venezia pubblico freddo per la nuova opera di Verdi, il maestro per la Traviata parla di fiasco. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura le cronache di questo inizio di guerra. Lo scoppio del conflitto tra Russia e Turchia non ha sorpreso, perché Istanbul è da tempo al centro dei maneggi degli stati europei. Tutti definiscono l'impero ottomano il grande malato d'Europa. Russia, Francia, Regno Unito e impero austriaco hanno ragione di ritenere che Mar Nero e Balcani siano destinati a diventare area di conquista e sono in concorrenza. Siccome però è stato l'impero russo a essere più aggressivo, la speranza dello zar che la contrapposizione tra francesi e inglesi spingesse Londra verso un'intesa con Mosca, almeno verso la neutralità, è stata clamorosamente smentita. Troppo rischioso per la regina Vittoria uno sbarco russo sulle coste mediterranee. Inoltre, già nel 1851, una disputa tra Francia e Russia sul ruolo di potenza sovrana di riferimento per il mondo cristiano in Terra Santa aveva reso evidenti agli inglesi l'aggressività russa. La questione del protettorato sui principati danubiani di Moldavia e Valacchia è stata la scintilla dello scontro tra ottomani e russi, scoppiato il 23 ottobre. I francesi e gli inglesi stanno cercando di far arretrare Mosca per via diplomatica. Ma l'esito di una guerra aperta sembra, a molti, dietro l'angolo. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. L'economia, con il settore tessile di Milano e del Lombardo-Veneto in pesante crisi, tra i bachi da seta si è diffusa una vera e propria epidemia che viene chiamata atrofia contagiosa. Quando nascono, i preziosi bruchi sono quasi inappetenti e raggrinziti e le farfalle faticano a riprodursi. Il problema si sta estendendo anche ad altri regni d'Italia, compresa la Toscana, nella quale la produzione di seta gioca un ruolo importante nell'economia locale. Stime precise ancora non ce ne sono, ma molte filande sono state costrette a chiudere. Anche New York ha voluto il suo Expo e il suo Crystal Palace. Quella che è sorta nella città americana è una struttura assai più grande di quella realizzata a Londra, costruita però sempre in acciaio e vetro. Tra le invenzioni che hanno maggiormente attirato l'attenzione è quella di Elisha Otis, un inventore del Vermont che ha progettato un macchinario che promette di sostituire le scale. Gli americani lo chiamano elevator e gli italiani l'hanno tradotto con ascensore. Idea non nuova, ma Otis ha introdotto un dispositivo di sicurezza che fa sì che se la fune si rompe, la cabina non precipiti. Dopo tanto attendere è finalmente arrivata l'opera di Verdi basata sulla Signora delle Camelie di Alexandre Dumas. Si chiama La Traviata e non è stata esattamente un successo. Da una parte il soggetto scabroso, dall'altra la mediocrità degli interpreti hanno fatto sì che il pubblico che ha assistito alla prima, alla Fenice di Venezia, sia rimasto piuttosto freddo, sebbene il critico musicale della Gazzetta Ufficiale di Venezia si sia prodotto in lodi sperticate, scrivendo testuali parole che Verdi ha prodotto una cosa splendida. Il maestro non è soddisfatto, però è un fiasco, ha detto esplicitamente, non contento nemmeno dell'interprete principale Fanny Salvini Donatelli. Il musicista ha viaggiato fino a Parigi, dove sarebbe pronto un contratto con l'opera. È tutto, come sempre andate sul nostro sito www.radio24.it per scaricare il nostro quotidiano, andate a visitare la nostra pagina Facebook, il nostro blog, scriveteci a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.